L'economia delle piccole cose. Di Anna Migliorati. Siamo uno dei primi negozi che hanno riaperto. Ora si fa una gran fatica ad andare avanti perché ovviamente siamo in un posto turistico e quindi... In meno, il 98% in meno, perché non c'è proprio gente in questo momento. Siamo sempre su questo punto, non della gente, della troppa gente. D'altronde non si può negare a nessuno di venire a visitare un posto bello come le Cinque Terre, come del resto andare a Venezia o a Firenze. Il centro storico, soprattutto nella riva destra dell'Arno, era un mangificio e negozi di tutto e di più, souvenir, ristoranti di tutte le specie, carissimi, e quindi si era snaturata praticamente. Era snaturata con questo turismo eccessivo, non tornerà mai più come prima e sarebbe quasi un bene. Certo, tutte le botteghe, tutte le... e piccoli luoghi dove si va a mangiare non avranno più introiti, ovviamente. Dalle Cinque Terre a Firenze, ma è lo stesso a Roma o Napoli. Troppi stranieri o troppo pochi stranieri? Un'altra delle riflessioni che cambiano nei modi e nei termini in questo 2020. Ben ritrovati da Anna Migliorati, ma noi cosa ne viene in tasca? Perché non potremmo godere di un'Italia meno affollata e tanto bella? Francesi e svizzeri lungo la Riviera dei Fiori, inglesi per i borghi delle Cinque Terre, gli americani tra Ischia, Capri e la costiera amalfitana, olandesi nella campagna toscana, russi in Romagna e poi i tedeschi dal Veneto alla Puglia. Il confronto rispetto al 2019 è impietoso, 35 milioni di visitatori, 119 milioni di pernottamenti in meno, persi 23,3 miliardi di euro di spesa turistica in entrata. Anche se è vero che il turismo straniero dovrebbe per tradizione concentrarsi più sulla fine dell'estate e quindi potremmo, incrociando le dita e vedremo che succederà, recuperare a settembre. Ma dicevamo, per noi che succede? Il caso dell'estate è Venezia, in piazza San Marco, salotto della Laguna, proprio ieri e tra le polemiche sono comparsi ombrelloni e tavolini. Perché? Per rispettare le distanze di sicurezza. Polemiche, proteste non si possono vedere in piazza San Marco, dice qualcuno. Qualche riflessione da fare c'è. L'economia Covid ci cambia anche nel modo di percepire tutto questo. Forse non l'avremmo mai visto se non ci fosse stata la pandemia. Allora saluto Claudio Vernier, questa è la nostra storia, presidente dell'associazione Piazza San Marco, benvenuto con noi. Buongiorno. Innanzitutto gli ombrelloni in piazza San Marco, perché? Saranno in affitto fino al 31 di ottobre, perché così dice la concessione che abbiamo avuto vista l'emergenzialità. E perché? Perché con queste che sono le nuove regole, gli spazi interni dei caffè di piazza, che sono già abbastanza esigui, hanno la necessità di dar sfogo verso l'esterno e godere della piazza San Marco. Fa un po' effetto, nel senso che di Venezia si è sempre parlato come della piazza dove anche solo prendere un caffè era un lusso, dove attenzione, non bisognava sedersi. Sono cambiati un po' i parametri? È comunque un'esperienza, parliamo di luoghi molto fragili che hanno dei costi comunque molto alti a livello gestionale. Oggi come oggi comunque un caffè in piazza San Marco senza l'orchestrina parte da circa 3,50 euro. Possiamo dire che è stato un po' l'anno horribilis per Venezia, prima l'acqua alta, poi il Covid, insomma non c'è più il problema di dire arrivano in troppi. La città bisogna distinguere quello che è il turismo residenziale, cioè quello che rimane a Venezia, dorme a Venezia e riesce ad avere un'esperienza completa della città, e quelli che invece arrivano in giornata. Il problema di Venezia il più delle volte è quello di avere troppe persone che arrivano tutte insieme, quindi è sicuramente più fruibile in questo momento. I prezzi sono più economici rispetto a quello che sono stati nel passato. Si parla molto in questi giorni dell'arrivo o meno di turisti stranieri. La domanda è: perché ne abbiamo bisogno? Venezia purtroppo vive di monocultura turistica, tutti hanno puntato sul turismo. Nel momento in cui vai a togliere il turismo, soprattutto per i pubblici esercizi, i negozi di specialità veneziane e quant'altro, vuol dire togliergli sostanzialmente il 100% della propria clientela. Ci faccia conto che fatto 100 il fatturato, gli italiani vanno a coprire il 10-15%. Anche ammesso che tutti gli italiani che venivano a Venezia vengano anche quest'anno, non andiamo molto oltre. No, abbiamo riniziato a vedere tedeschi, francesi e austriaci che comunque coprono una bella fetta di mercato. Mancano i cinesi, mancano soprattutto gli americani per voi. Sì, assolutamente, più gli americani che i cinesi, nel senso che il cinese è un cliente alto spendente, però ce ne sono ancora pochi. L'americano invece copriva da solo anche lui un 10-15% della fetta di mercato come presenze, però come dicevamo sono veramente alto spendenti gli americani. Purtroppo il mercato italiano interno, diciamo, di autoctono non sono assolutamente sufficienti per una città che negli ultimi 5-7 anni ha aumentato in maniera esponenziale anche il numero di attività sul territorio stesso. Venezia è diventata una macchina che per funzionare ha bisogno di tantissime persone, in questo momento soffre moltissimo. Così per tutti o è solo il caso Venezia? Come sempre. Facciamo i conti. E ritroviamo Fabio Corno, docente all'Università Bicocca, bentornato. Grazie, un piacere. Riparto dalla domanda che abbiamo fatto fino ad ora. Perché ci interessa così tanto il turismo straniero? Beh, tenga conto che in Italia il 50% dei turisti presenti viene dall'estero, con una presenza ancora più massiccia in alcune regioni rispetto alle altre. Parliamo poi delle città d'arte dove il turismo straniero è veramente pesa tantissimo. Quindi avere gli stranieri che non vengono, avere gli hotel di lusso che non ricevono prenotazioni, avere nell'anno del turismo celebrativo del rapporto tra Italia e Cina i cinesi che non bussano alla porta. E già, perché quest'anno problema. Dovevamo avere il boom dei cinesi e ovviamente è saltato tutto. Assolutamente sì, e questo è un gravissimo danno. Tendenzialmente il 2020 è l'estate peggiore per numero di presenze dal 1998, con un crollo di circa 44% del turismo rispetto all'estate 2019, quasi un dimezzamento. Partiamo da un 2019 dove avevamo avuto 430 milioni di pernottamenti, di cui metà italiani e metà stranieri, e gli stranieri l'anno scorso hanno speso 46 miliardi di euro in Italia. Ed ecco perché è un'economia delle piccole cose che interessa anche a noi e le nostre tasche. Gli italiani non compensano, cioè se noi non andiamo all'estero, restiamo in Italia, non ci basta la nostra economia dal gadget ai caffè, al gelato, ai souvenir a compensare? Direi proprio di no, perché gli stranieri vengono e spendono molto di più e gli italiani, per quanto una vacanza è comunque brevi, e questo è molto rilevante. È chiaro che rispetto al 19% di quote di italiani che pensavano di andare in vacanza, adesso si passa al 48, al 49, di vacanze brevi, con 2-3 prenotamenti al massimo, restando vicini a casa. E poi dipende, arrivano e spendono molto di più. E poi dipende appunto dove e spendendo quanto. Non è uguale neanche per tutte le città d'arte. Assolutamente no, abbiamo delle differenze molto rilevanti. A Roma il 72% del turismo è composto da stranieri. A Venezia 88% degli ospiti arriva da oltre frontiera, e questa è sicuramente la destinazione che paga più lo scotto di questa situazione. Sono aperti solo 50 strutture e il 10% delle camere è occupato. Venezia soffrirà dal fatto che la Biennale non si farà quest'anno, che la Mostra del Cinema si farà ma non si sa come. Hanno confermato due eventi pubblici come il Redentore e la Regata Storica, e questa è una cosa positiva. Firenze, anche qui 70% delle presenze legate agli stranieri e solo il 25% degli albergatori che ha scelto di riaprire. Quindi c'è un'economia veramente in grossissimo rosso. Tenga conto che bisognerebbe avere, questi sono dati di Federalberghi Firenze, dovrebbero avere un'occupazione media annuale dell'80-85% per avere degli utili e per rimanere a galla, quindi siamo ben lontani. Si dice anche che il turismo straniero in realtà non segue i nostri stessi ritmi, cioè ci sono altre stagioni, soprattutto l'autunno per l'arrivo degli stranieri. Verissimo, dipenderà molto però da cosa succede col virus. Gli americani... Cioè non prenotano ancora? Ma non prenotano ancora, non sanno bene, cioè infatti il coronavirus in America sono... E gli stessi cinesi temono un rebound del virus, quindi poche certezze. E allora, buona Italia e buona vacanza. Ci risentiamo alla prossima. Noi ci saremo anche sabato prossimo, è luglio, ma siamo puntuali qui per raccontarvi un'altra storia, un'altra economia delle piccole cose. Vi aspetto. Un saluto da Anna Migliorati.